Giovanna, buongiorno. Ciao Gianluca, ti piacerebbe avere una donna così? Ma io ce l'ho, sono già fortunato, non la devo cercare. No, appunto, cioè tutta, tutta come la descrive. Assolutamente, sto descrivendo la mia situazione personale. Ah, ma sei fortunato, io Certo, non. sono molto fortunato, Io voglio non. condividere la mia fortuna con gli altri. Certo, quando Però torno a voglio casa me la dire, è vedo anche male. una comodità. Ascolta Gianluca, per una donna diventa come posso dire, uno sforzo dalla mattina alla sera. Perché tutto il giorno deve fare la casa accogliente perché deve accudire, giustamente, ha preso l'impegno, ha fatto il matrimonio, i figli, Ovviamente tutto. la gioia è quel momento fatidico quando alle 19 di sera rientra e incontra il marito. Ha dato un senso alla sua giornata, l'aver pulito, preparato, cucinato, Ah, ma potrebbe organizzato. avere anche due balloggi grossi così, eh? Balloggi cosa sono? Adesso da Bologna allora. No, no, no, interessa. I balloggi? Ti ho insegnato una parola nuova. Ma cosa? No, no. Due scatole così perché, Ah, cioè, voglio dire. allude agli attributi maschili, ma la donna non ce li ha. No, voglio dire, cioè, è vero che l'uomo è fuori casa per lavoro, per Certo, passare bene poverino. la famiglia e tutto, Sono però, responsabilità. insomma, il decalogo della donna come deve essere, porca miseria, è uno sforzo giornaliero. Allora, appena che sai che è Ma pensa l'orario alla che gioia. arriva Bellissimo, lui, devi andare in bagno e puliti tutta, se profumata, truccarti. Io se certo. mi voglio truccare a far bagno dopo aver fatto la mia ginnastica, lo faccio anche per me. Eh beh, vuoi Non è fa... perché aspetto lui, perché dopo chissà cosa, No, chissà oppure deve cosa. No, trovare la casa. una E volta ce ne sono settimana. tanti qua. Una volta Gianluca, settimana. Una volta settimana Gianluca. l'uomo finalmente assolve al debito Sì, coniugale. va bene, però ricordati Gianluca che ci sono tante, tante situazioni che pur la moglie quando arriva a casa, che è truccata, che è qui, che è là, non mi fa ripetere Sì, quella sì. parola, lui si è già divertito fuori con quelle dell'ufficio, con quelle della Ma banca e poverino, tutto. ma con E tutte lei le sta lì. responsabilità che ha, ma è normale questo. La Eh? donna in quel caso, la donna ideale in quel caso, non è che fa una scena, capisce che lui ha avuto una vita difficile, quindi poverino, ha anche questo tipo di bisogno, poi sempre uomo, l'uomo è uomo, lo sai, l'uomo ha delle esigenze che le donne non hanno, quindi è ancora più sorridente capendo che lui in realtà si è già prodigato per altre donne.